Di Maio vola in Turchia, Sarraj lancia un appello a ONU e Europa, Haftar arretra e l'Italia? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci. İtalya ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren konular var. Örneğin Libya. Siamo fermamente convinti che un dialogo costruttivo tra l'Unione Europea e la Turchia sia fondamentale. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Anche quest'oggi ruoteremo il mappamondo per darvi conto delle notizie e dei fatti principali accaduti e che meritano il nostro approfondimento e la nostra attenzione. La squadra: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi Laura Faggini in assistenza e in regia Roberta Frisani. 349-238-6666. Quest'oggi, ahimè, leggo solo gli sms, però vi leggo su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, trovate anche la diretta Facebook, appunto, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Queste sono le coordinate per commentare e porre domande su che cosa. La storia libica, la storia contemporanea, apre un nuovo capitolo, perché il ministro degli esteri Luigi Di Maio è volato ad Ankara, ha incontrato il suo omologo Cavusoglu, ci sono già le prime dichiarazioni dopo la conferenza stampa che vi faremo sentire. Allo stesso tempo Sarraj, in un'intervista, in una lunga lettera, un appello direi quasi, pubblicato da Repubblica, manda chiari segnali alla Turchia, all'Italia e all'intera Unione Europea, nonché anche al generale ribelle Haftar. Proveremo a fare il punto, da un lato, su quello che sta accadendo sul terreno, dall'altro su come si sta muovendo la grande politica internazionale. Non prima, naturalmente, di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta in Cina, ma anche contemporaneamente in Canada. Perché? Perché Michael Krovig e Michael Spavor, due cittadini canadesi che erano stati arrestati in Cina nel 2018, sospettati di aver rubato segreti di Stato, sono stati ufficialmente incriminati per spionaggio, appunto. Accuse che in Cina, badate bene, possono portare a lunghe pene detentive. La vicenda dei due uomini, perché dico che questa vicenda lega a doppio filo Canada e Cina, oltre alla loro cittadinanza evidentemente, perché legata a quella di Meng Wanzhou, che è la direttrice finanziaria di Huawei e figlia del fondatore. Era stata arrestata nel 2018 a Vancouver su una richiesta di estradizione che arrivava dagli Stati Uniti. In questo momento l'estradizione non è stata concessa, la Wanzhou, la direttrice finanziaria, si trova agli arresti domiciliari. Secondo Washington, la donna avrebbe violato le sanzioni commerciali imposte dagli USA all'Iran, vendendo a Teheran prodotti per le telecomunicazioni che però utilizzano brevetti statunitensi sotto licenza. Secondo la maggior parte degli analisti, l'arresto dei due cittadini canadesi, lo ripeto, Michael Krovig e Michael Spavor, è proprio una ritorsione da parte cinese per l'arresto, il fermo della Meng, che è un personaggio molto molto importante, è il numero due di Huawei, il colosso delle telecomunicazioni cinesi, quindi immaginate quanto per Pechino sia stata una ferita piuttosto dolorosa. Di Krovig e Spavor non si sa moltissimo, se non che sono detenuti in due località diverse e in questi mesi non hanno avuto la possibilità né di incontrare un avvocato né di parlare con le proprie famiglie. E poi andiamo negli Stati Uniti. Sono una delle 800.000 persone in questo paese che ha avuto la possibilità di ottenere un permesso di lavoro e l'immunità dall'espulsione grazie al DACA. E grazie a tutto questo ho potuto pagarmi gli studi, pagare un affitto. Perché andiamo negli Stati Uniti? Perché la Corte Suprema ha stabilito che il presidente Donald Trump non può abrogare il DACA, che è quel programma voluto dall'ex presidente Barack Obama per tutelare dalle espulsioni i migranti irregolari che erano arrivati negli Stati Uniti quando all'epoca erano ancora bambini, minorenni seguendo i propri genitori, quelli che i media hanno ribattezzato come Dreamers. Il DACA non permette di ottenere la cittadinanza, però permette di contrarre regolari contratti di affitto, nonché regolari contratti di lavoro e coinvolge tra le 650.000 e le 800.000 persone. La Corte Suprema si è pronunciata dicendo che il presidente statunitense non ha fornito una giustificazione adeguata per andare ad abrogare questa norma. Verdetto che, sottolineo, è stato firmato dal giudice conservatore John Roberts, da 4 giudici progressisti e si colloca questa decisione della Corte Suprema in un, come dire, in una quasi un braccio di ferro tra il potere supremo giudiziario americano e l'amministrazione statunitense, perché è la seconda volta in una settimana che la Corte Suprema si pronuncia contro l'amministrazione Trump. Lunedì la Corte aveva stabilito che era proibito il licenziamento di un lavoratore sulla base del suo orientamento sessuale o identità di genere, una sentenza che aveva sconfessato la posizione dell'amministrazione Trump, secondo cui il titolo 8 della legge sui diritti civili, che vieta la discriminazione basata sul sesso, non si estende alle rivendicazioni dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale. E poi in Australia, perché sono state ore, anzi forse dovrei dire giorni, ma è meglio dire settimane, piuttosto calde. Si è pronunciato soltanto poche ore fa il primo ministro australiano Scott Morrison, ma ha raccontato che l'Australia è stata colpita da un attacco informatico su vasta scala che nell'arco di alcuni mesi ha colpito enti pubblici e anche enti di governo, nonché organizzazioni private a vari livelli. Sebbene l'attacco sia in corso da parecchio tempo, solo negli ultimi mesi gli episodi si sono intensificati, ma le autorità australiane hanno voluto rassicurare la popolazione dicendo che è stato sì un attacco su larga scala, ma che non è riuscito a penetrare efficacemente quelle che sono le difese informatiche dei vari enti sotto attacco. Nessuno ha fatto nomi, ma si è parlato con assoluta certezza che sarebbe stata un'autorità statuale ad effettuare questo attacco, e si sussurra ovviamente sui media australiani che le autorità governative australiane stesse puntino il dito su Pechino. Sapete che tra Australia e Cina c'è in atto un conflitto geopolitico, non si spara per carità, ma soprattutto una serie di diatribe, soprattutto a livello commerciale e di egemonia sui mari, che sono a dividere la grande potenza di Pechino e l'Australia, appunto. Infine in Germania, perché la Procura Generale Federale tedesca ha formalmente accusato un cittadino russo per l'omicidio di Zelim Khan Kangoshvili, ve lo ricorderete, dissidente ceceno ucciso a colpi d'arma da fuoco in un parco di Berlino. Era il 23 agosto del 2019, dedicammo un'intera puntata di Nessun Luogo Lontano proprio a questo incredibile evento. L'omicidio dell'uomo aveva aperto una vera e propria crisi diplomatica tra Berlino e Mosca, con la reciproca espulsione di tutto il personale diplomatico. Ebbene, l'accusato sarebbe Vadim Krasikov, che era stato arrestato poco dopo l'omicidio e attualmente è in carcere. Secondo la ricostruzione della procura tedesca, e si legge da un comunicato, le autorità governative russe hanno ordinato all'accusato di liquidare il dissidente ceceno, e il motivo di questo omicidio per procura sarebbe l'opposizione di Kangoshvili al governo russo e la sua partecipazione alla seconda guerra cecena. Questi nostri dossier internazionali. Intanto arrivano i primi messaggi, lo ricordo, è solo SMS per quest'oggi, oppure Facebook e Twitter 349-238-6666, che vanno a bollare la Turchia come fiancheggiatori dei terroristi dell'ISIS. Tra pochissimo parleremo anche di Turchia, non prima però di aver sentito la voce del ministro degli esteri Luigi Di Maio. Con questa voce apriamo la pagina libica. L'Italia considera la Turchia un partner fondamentale e siamo intenzionati a mantenere e rafforzare il nostro dialogo sulla base di un'agenda positiva, fondata su un dialogo franco, costruttivo, che possa portare sempre più mutui benefici. È terminata da pochissimo l'incontro tra Cavusoglu e Luigi Di Maio. Si sono visti in Turchia su invito proprio delle autorità turche per evidentemente cercare di appianare quelle che potevano essere alcune frizioni, e sul tavolo c'erano tanti tanti dossier, da quello del ruolo dei rispettivi paesi nel Mediterraneo, ma anche e soprattutto la Libia, dove, come sapete, l'intervento turco che ha messo la quinta e ha permesso di dare tanta benzina, tanto carburante alle truppe di Sarraj, che ormai sono alle porte di Sirte, ha quantomeno messo in un angolo la posizione dell'Italia. Vi faccio sentire ancora un commento di Luigi Di Maio. Qual è la posizione del governo sulla fine del conflitto? Sentite. Per l'Italia è essenziale che la situazione in Libia non costituisca una minaccia per la sicurezza del nostro paese e dell'Unione Europea. Siamo infatti convinti che una soluzione politica, oltre ad essere l'unica praticabile, sia ancora possibile, e per questo sosteniamo con forza il processo di pace guidato dalle Nazioni Unite nella cornice di quanto stabilito dalla Conferenza di Berlino. Insomma, a volte la diplomazia è fatta, anche le relazioni internazionali sono fatte anche di frasi un po' di prammatica, perché mentre Luigi Di Maio continua a invocare la diplomazia, come fa tutta l'Unione Europea, e per carità, i turchi invece hanno fatto parlare le armi, e così Sirte, la battaglia per Sirte sarà quella fondamentale. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Arturo Varvelli dirige l'ufficio di Roma dell'European Council of Foreign Relations. Arturo, buongiorno e ben ritrovato. Buon pomeriggio. Allora, Di Maio in Turchia, Sarraj che avanza, un primo commento sulla leadership di Sarraj. Mi sembra che con la benzina turca e con la lettera che ha riportato Repubblica quest'oggi, con i suoi appelli anche all'ONU ma anche all'Unione Europea, mi sembra un leader un po' più solido, quasi come se quella fragilità che abbiamo spesso, che hai spesso raccontato, Arturo, in qualche modo si fosse evaporata, fosse un po' più granitico, merito dei successi militari, o c'è anche dell'altro secondo te? Beh sì, è così, e soprattutto merito del successo militare. Naturalmente a Sarraj si è sempre rimproverato di essere un leader un po' debole, e sicuramente il fatto di essere ritornato in possesso di gran parte della Tripolitania e anche in buona parte del sud, quindi essere in una nuova fase, come dire, dalla fase difensiva alla fase espansiva, sì, di ritorno a un controllo territoriale ampio, naturalmente gioca a suo favore. Però insomma ci sono luci e ombre anche in questo. Sappiamo che sotto lo scacco di Haftar, come dire, il fronte della Tripolitania si era molto compattato, però è composto sempre da variegate forze, le milizie di Misurata e di Zintan contro quelle di Tripoli, diversi leader che si contendono un po' anche la palma di vincitore di questa situazione. C'è il ministro degli interni Bashaga, un uomo che ha dimostrato una capacità, sì, militare considerevole, sì, rispetto al passato. C'è un vicepresidente Maitig che reclama un suo ruolo e ha relazioni internazionali importanti, quindi in ogni caso resta un fronte vario. La voce che state ascoltando è quella di Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma. Tra poco vi faccio sentire un'altra voce, che è quella di Marc Pierini, già ambasciatore dell'Unione Europea in Turchia, esperto del Carnegie Europe Institute. Non prima però di avervi dato un quadro di quella che è la situazione sul terreno. Innanzitutto, degna di nota è, ed è una foto che ha fatto circolare proprio l'account Twitter dell'ambasciata italiana in Libia, il supporto dei militari italiani nella operazione di sminamento che viene effettuata in queste ore dai militari libici. Perché Haftar, prima di ritirarsi, oltre a lasciare qualche traccia, per così dire, di fosse comuni, ma qua la magistratura e gli inquirenti libici dovranno, evidente, se non internazionali, dovranno indagare, vi sono vari ordigni esplosivi improvvisati e non solo, anche mine a tutti gli effetti, che, complice la capacità dei militari italiani, i libici adesso stanno tentando di disinnescare. Altro punto notevole, la ripresa parziale dell'economia. Sapete che ormai Tripoli è messa praticamente in sicurezza, l'aeroporto di Mitica è sotto il controllo delle truppe del governo di accordo nazionale, le compagnie turche di energia elettrica Anka e Galik hanno annunciato la ripresa dei lavori in Libia per la costruzione di due centrali elettriche proprio nelle aree sotto il controllo del GNA di Tripoli. Invece dall'altra parte continuano a girare foto pubblicate, e a pubblicarle è proprio l'Africom, che ormai, come dire, consolidano la tesi, che non è più tesi, sembra ormai realtà giornalistica, di quei MiG-29 russi e i bombardieri Sukhoi-24 che sono nella base aerea di Al-Jufra, siamo nel Fezzan a sud di Sirte, che è ancora nelle mani di Haftar. Sempre dal lato di Haftar, poche ore fa alcune foto satellitari hanno mostrato una lunga processione di veicoli militari che si stanno dirigendo verso Sirte. Questa è la posizione sul terreno, ma la voce di Pierini è stata solleticata spiegato da Antonio Talia sul senso dell'incontro tra il ministro degli esteri Luigi Di Maio e il suo omologo turco. Sentite che cosa ne pensa l'analista. Je dirais que la première remarque, c'est que... La prima cosa da sottolineare è che in questo momento è importante che il ministro degli esteri di un grande paese europeo parli con il ministro degli esteri della Turchia. Questo vuol dire che perlomeno c'è un dialogo che prosegue, anche se in questo momento le azioni della Turchia sono particolarmente problematiche per l'Unione Europea nel suo insieme e per l'Italia. Quindi siamo di fronte ad una situazione decisamente complessa da diversi punti di vista, militare e politico, ma anche di politica interna turca e anche per quanto riguarda il ruolo della Russia nei suoi rapporti con l'Unione Europea. Dunque, all'interno di una situazione così complessa e in cui i riferimenti tradizionali non sono più di grande utilità, continuare a parlarsi è importante. E où les repères traditionnels ne servent plus beaucoup. C'est important de continuer à se parler. Quasi un cambio di paradigma quello evocato da Marc Pierini, è stato ambasciatore dell'Unione Europea in Turchia ed è un analista esperto del Carnegie Europe Institute, però anche in un cambio di paradigma in una zona così delicata come la Libia continuare a parlare è evidentemente importante. Arturo Varvelli, Sarraj fa appello all'Unione Europea e all'ONU, abbiamo letto su Repubblica, ma si fa accompagnare in questo viaggio militare a questo punto a tutti gli effetti, da un attore che è la Turchia, che però gioca molto in maniera ambigua, no? Perché abbiamo una Turchia membro della NATO ma che riceve armi dalla Russia, abbiamo una Turchia che a un certo punto ha messo la quarta senza dire niente a nessuno, benché su invito di Sarraj, e se n'è andata in Libia. Abbiamo una Turchia che mette le mani sul Mediterraneo e va a compromettere gli interessi europei, allo stesso tempo una Turchia che qualche mese fa ha rinnovato il suo interesse e desiderio a che l'Unione Europea riapra le trattative per l'ingresso dell'Unione Europea stessa. La domanda che ti faccio non è che Sarraj ha scelto un attore, un compagno di viaggio nella sua cavalcata verso Bengasi, verso Tobruk, troppo ambiguo per poi avere alla lunga il supporto dell'Unione Europea? Io penso che abbia scelto la Turchia dettato dalle condizioni che aveva, e la Turchia in questo momento più che un attore ambiguo per Sarraj è un attore ingombrante. Diventerà sempre più ingombrante se questo legame di dipendenza molto forte, che dal punto di vista militare certamente esiste tra il GNA, il governo di accordo nazionale che risiede a Tripoli, e Ankara, sarà duraturo. Quindi sì. Penso che Sarraj stesso vorrà in qualche maniera svincolarsi da questa morsa molto stretta. Gli è stata molto utile la Turchia, continuerà a essere utile perché è l'unica che si è impegnata militarmente quando Sarraj, il GNA, sembrava soccombere, quindi aveva una stretta esigenza di sopravvivenza. Però se si vuole fare una pace, vincolarsi alla Turchia o solamente alla Turchia da parte di Sarraj rimane molto complesso, difficile, e crea un legame di subalternità molto evidente. Sì. Ed è per questo che richiama in causa le Nazioni Unite e l'Europa in generale. Io penso che sia il momento dell'Europa di essere più proattivi. Sappiamo che questa crisi Covid ci ha di nuovo fatto dimenticare che il mondo attorno a noi va avanti, le crisi continuano a esserci, e poi le ricadute sono soprattutto su di noi italiani, sì, noi europei in generale, in questa, sì, parte del mondo. Quindi, sì, quindi è l'ora di raccogliere i cocci nuovamente e ricomporre un quadro politico internazionale che è molto difficile. Ma penso che la relazione tra Russia e Turchia in questo momento non sia esaustiva della situazione libica. Ci sono troppi attori coinvolti perché solo questi due possano fare una pace duratura. Quindi io penso che il momento ancora dell'Europa verrà. Il problema è trovare una sintesi molto rapidamente, non possono passare mesi. Penso che sia più facile trovarla ora rispetto a mesi fa, perché naturalmente ci sono dei punti in comune tra noi e la Francia, essenzialmente molto più vicini. C'è la presenza turca che non può essere a tempo indefinito, c'è, sì, una presenza russa assai inquietante, che hai ricordato benissimo anche tu, sì, che potrebbe in qualche maniera ricostringere gli Stati Uniti a guardare questo quadrante. Ci sono le questioni energetiche, c'è la questione dei migranti. Quindi sulla base di questo è giusto che l'Europa prenda una posizione più dura, secondo me, sì. Non solamente nei confronti della Turchia, sui quali si può usare una leva all'interno del campo NATO, una relazione sì. complessa dell'Europa, ma anche e soprattutto verso gli Emirati Arabi Uniti e anche verso la Russia. Sì, ancora una volta la lucida e precisa fotografia di Arturo Varvelli, direttore dell'European Council on Foreign Relations di Roma. Interessante la tesi, mi permetto di sintetizzarla, Arturo. In buona sostanza vi sono dei pesi massimi in territorio libico, la cui presenza molto utilizzata dalle fazioni in campo in questo momento, ma potrebbero diventare estremamente ingombranti in un momento di, speriamo, di prossimo venturo di pace, in cui però conteranno altre cose che non sono le armi, ma magari la sensibilità, la voglia di ripartire, far ritornare le imprese, per esempio quelle italiane in Libia, per riallacciare quei rapporti economici che storicamente ci sono. Grazie mille, Arturo Varvelli, lo ricordo, grazie, dirige voi, l'European Council of Foreign Relations di Roma. Buona giornata e buon lavoro, Arturo. Grazie. Allora ricordo 349-238-6666, solo sms per quest'oggi, abbiate pazienza, vi chiedo un piccolo sforzo, però su Facebook ci siamo, leggo i vostri messaggi, su Twitter anche. C'è qualcuno che ironicamente, evidentemente solletica il sottoscritto, non avevamo perso la Libia, sì, ma nemmeno l'abbiamo riguadagnata in questo momento. Evidentemente la posizione molto attendista del governo italiano adesso probabilmente sta cambiando marcia con la visita del ministro degli esteri Luigi Di Maio. Lo ricordo, si è appena concluso l'incontro con Cavusoglu. Molte frasi di prassi, diciamo, a cui le relazioni e la grande diplomazia ci ha abituato. È evidente che magari quello che è stato detto nelle stanze di Ankara non viene immediatamente comunicato da parte dei due interlocutori, ma è evidente che questo incontro è assolutamente importante. Tra pochissimo vi faccio sentire ancora la voce di Pierini e poi però vi anticipo che andremo a Tripoli, in Libia appunto. Lo faremo con la voce dell'ambasciatore Buccino, che ci dirà le ultimissime, fra cui anche quell'operazione di sminamento che i militari italiani stanno coraggiosamente, virtuosamente ed efficacemente iniziando a fare con i libici. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano facciamo il punto sulla situazione in Libia, complice un incontro che si è chiuso pochissimi minuti fa fra il ministro degli esteri Luigi Di Maio e il suo omologo turco Cavusoglu. Al di là di alcune frasi di circostanza, a leggere la risposta di Cavusoglu, per esempio, si nota una certa apertura da parte della Turchia. Una dichiarazione dice: l'Italia può giocare un ruolo di facilitatore per l'auspicato dialogo tra Turchia, Grecia e Cipro. E quanto avrebbe detto, scrivono le agenzie, il ministro degli esteri, appunto Cavusoglu, al titolare della Farnesina Luigi Di Maio nel corso dell'incontro che si è tenuto oggi a Ankara. Dalle voci che arrivano dalle agenzie, dei politici turchi e italiani, alle vostre voci sintetizzo un messaggio su tutti, credo valga la pena essere riferito. Credo che per Sarraj valga quanto detto da Churchill a proposito dell'alleanza con Stalin: se Hitler invadesse l'inferno mi alleerei con il diavolo. E così un ascoltatore sintetizza quello che Arturo Varvelli dell'European Council of Foreign Relations battezzava come un'alleanza sicuramente molto utile, ma che alla lunga potrebbe diventare ingombrante, e forse alla lunga l'Italia potrebbe, con la sobrietà in politica estera che ha dimostrato, la timidezza secondo alcuni nell'ultimo periodo, giocarsi una bella partita adesso in Libia. Andiamo allora in Libia, andiamo nella capitale, Tripoli, lo facciamo con la voce dell'ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi. Ambasciatore, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo. Buongiorno. Allora, ambasciatore, la prima domanda è forse più che da diplomatico, da giornalista, perché le chiedo immediatamente: che aria tira Tripoli dopo la fine di quella morsa che Haftar aveva cercato di imprimere alla città? Guardi, dai primi di giugno la situazione è molto migliorata, non vi sono più esplosioni a Tripoli, la vita sta tornando alla normalità, vi è ci sono le preoccupazioni per il virus, per il Covid-19, sì, che impongono il coprifuoco durante il fine settimana e durante le serate, ma per il resto la situazione è molto migliorata. La voce che state ascoltando è quella dell'ambasciatore Buccino, che ci parla in diretta da Tripoli, proprio mentre in pochi minuti fa si concludeva un incontro del titolare della Farnesina con il suo omologo ad Ankara. Evidentemente Turchia e Italia devono parlarsi, perché sono gli attori forse più importanti dal lato di Serraj, il governo di Tripoli riconosciuto anche dalle Nazioni Unite. Tra i lasciti invece benefici del generale Haftar, che sta battendo per il momento in ritirata, ripeto, la battaglia forse risolutrice sarà quella di Sirte, ci sono ordigni esplosivi che i militari italiani, ambasciatore, avete postato proprio come dal sito dell'account Twitter dell'ambasciata proprio alcune immagini, stanno aiutando i libici a disinnescare. Ci può dare qualche ragguaglio in più, qualche dettaglio su questa operazione piuttosto complessa e delicata, immagino? Certamente, è un'operazione, come lei dice, complessa e delicata. Si tratta di circa 100 chilometri quadrati di territorio, quindi di abitazioni, di edifici civili, che sono minati alla periferia di Tripoli, nei quartieri periferici della capitale. E ovviamente le persone vogliono tornare nelle case, vi sono più di 200.000 sfollati nella capitale, e vi sono stati già molti morti, almeno una quarantina di morti e più del doppio di feriti. Quindi occorre sostenere i libici nello sminamento, ed è per questo che la MIASIT, la missione italiana di assistenza e sostegno in Libia, sta operando, il Ministero della Difesa, il comandante della missione, che è il generale Maurizio Fronda. Sì. Devo dire che io sono molto orgoglioso di questa attività che in poco tempo è stata messa in piedi. I nostri esperti, i nostri ingegneri sono già qui, stanno collaborando con i ingegneri libici, e l'avvio di un processo, di un intervento che non sarà breve, perché vi è tanto da sminare. E devo dire che la popolazione libica è molto grata all'Italia per questa azione, che è un'azione umanitaria volta a permettere il rientro nelle abitazioni e la riduzione, speriamo alla fine, di morti e feriti in quell'area. E comprensibilmente, verrebbe da aggiungere, perché se già la guerra, come dire, è funesta, quando vi sono lasciti di questo tipo lo è ancora di più, perché questo genere di ordigni normalmente vanno a colpire in un periodo di post bellico, diciamo, soprattutto i civili. Ambasciatore, se non erro, il suo primo incarico, e mi perdoni se torno indietro negli anni, fu in Libano dopo la guerra, anche lì epoca di ricostruzione. Forse tante similarità, forse le vedo io, ambasciatore, mi sconfessi se sbaglio. Tante similarità nel post-conflitto, anche lì in Libano tante anime, qui in Libia, o meglio lì da lei in Libia, tante tribù, tante milizie, tante anime appunto. Quanto è difficile dialogare con queste diverse fazioni, tribù allargate con le relative milizie? Che sforzo diplomatico deve mettere in campo per tenere insieme questi tavoli multilaterali, per forza di cose, no? Ma guardi, la situazione in Libano dipendeva dal quadro molto complesso di quella parte del Medio Oriente. La crisi libica si apre con la rivoluzione del 2011 e la necessità, dopo la rivoluzione, di ricostruire uno Stato libico dopo 40 anni di gheddafismo, quindi con le istituzioni sostanzialmente assenti. E il dibattito fra continuità e discontinuità, quanto di nuovo si vuole, quanto invece del vecchio regime deve restare, e ovviamente questo non è semplice, è una componente ideologica. Poi in Libia vi è anche una componente legata alle regioni del paese, però quello che vorrei dire è che l'Italia ha giocato con molta trasparenza, e quindi in questa fase può certamente essere utile per la definitiva stabilizzazione del paese. Lei parlava di una battaglia decisiva che potrebbe esserci a Sirte. Speriamo che questa si possa evitare e si possa andare verso la pacificazione e la riunificazione delle istituzioni. I cittadini libici lo meritano, perché dal 2011 che questo paese è sostanzialmente instabile. La prima guerra civile fu nel 2014, la guerra che portò alla distruzione dell'aeroporto internazionale. Noi stiamo lavorando all'aeroporto internazionale con un consorzio italiano il conflitto a Tripoli aveva interrotto i lavori, riprenderanno presto, in realtà non si sono mai bloccati per quanto riguarda la progettazione, la riapertura dell'aeroporto internazionale sarebbe un importantissimo segno di stabilizzazione del paese. Certo, più in generale, ambasciatore Buccino, che quanti spiragli, quante aperture vede anche in proiezione per le imprese italiane, per un ritorno a tutti gli effetti anche dell'economia italo-libica, diciamo, adesso che Sarraj si fortifica? La Libia è un paese ad alto reddito. Nel 2012, quindi dopo la rivoluzione, avevamo un PIL di 81, quasi 82 miliardi di dollari e parliamo dell'anno positivo, l'anno in cui dopo la rivoluzione sembrava possibile far ripartire il paese. Oggi siamo intorno ai 40 miliardi e anche meno perché vi è stata a gennaio, come sa, la chiusura dei pozzi. La Libia è un paese con immense potenzialità, un paese meraviglioso che ha tutto, a partire dalle risorse del territorio, energetiche, minerali, e dove nella fase ultima del regime di Gheddafi erano partite imprese miste di grande importanza, sì. Finmeccanica Leonardo, Iveco e tante altre anche di altri paesi. E l'economia libica è una sponda fondamentale per l'economia italiana. Oggi resta ancora qualcosa, resta ancora parecchio, l'interscambio è molto alto, siamo sui 6 miliardi di euro, il secondo nell'area, era di 15 miliardi nel 2012 e può certamente risalire e il gasdotto è funzionante da Zuara a Gela e quindi se vi è un minimo di stabilità possono ripartire ancora di più le esportazioni italiane verso la Libia, ma soprattutto possono ripartire le imprese miste. Oggi il quadro complessivo è difficile, ci sono problemi con l'elettricità, con l'acqua, con i bisogni sì. primari, io però mi sento fiducioso, credo che questo paese un po' alla volta riuscirà ad uscire dalla rivoluzione e da tutte le sue conseguenze. Quello che è accaduto è un fatto storico, c'è bisogno di tempo per trovare una nuova stabilità, basti pensare ai esempi anche in Europa, dopo una rivoluzione la stabilità richiede naturalmente tempo, si aprono varie fasi, alcune di queste fasi sono molto difficili, ma credo che vi siano le possibilità per uscire progressivamente dalla crisi. Storia maestra di vite, su questo non ci piove. Ambasciatore Buccino, le chiedo un attimo di pazienza, facciamo sentire l'informazione sul traffico, poi ho l'ultima domanda per lei. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, subito in diretta di nuovo a Tripoli in Libia con la voce dell'ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi. Ambasciatore, l'altra domanda che le volevo fare è questa, che è un po' sentimental geopolitica, mettiamola così. Quando ha visto per la prima volta la bandiera turca arrivare a Tripoli, che cosa ha pensato? Guardi, non ho pensato molto, perché in realtà i rapporti tra l'Italia e la Libia sono dei rapporti fortissimi, sono dei rapporti storici, sociali. I libici ci ricordano che uno degli ultimi grandi imperatori dell'impero romano, Settimio Severo, era libico e l'Epsis Magna è l'ascito anche di Settimio Severo all'impero romano, questa magnifica città. Quindi credo che noi non dobbiamo ragionare in questi termini. I turchi sono intervenuti, il governo ha chiesto ai turchi quello che altri paesi non potevano dare da un punto di vista costituzionale, da un punto di vista legislativo, da un punto di vista generale. I turchi hanno svolto un ruolo importante, sono un paese della NATO, il secondo esercito della NATO, ma i libici si rendono perfettamente conto che devono rinsaldare i rapporti con gli altri paesi tradizionalmente amici, quindi certamente l'Italia, quindi certamente gli Stati Uniti, proprio per evitare di finire soltanto legati ad un paese. Quindi non vedo problemi particolari, io sono convinto che il quadro progressivamente si stabilizzerà anche da questo punto di vista. Grazie mille all'ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi, è il capo della nostra delegazione, la rappresentanza dell'Italia proprio in Libia, ci ha parlato da Tripoli, ambasciatore, grazie mille, buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille. E così con anche la voce dell'ambasciatore Buccino abbiamo tentato di comporre un po' meglio il puzzle che è in continua ricomposizione, quello libico naturalmente. Allora, da un lato abbiamo, e lo sottolinea molto bene un ascoltatore al 349-238-6666 con un sms, e dice: la dichiarazione turca, quella di Cavusoglu cui facevo riferimento prima, sembra molto chiara. Se vogliamo che ci lasciano una fetta di Libia, dobbiamo aiutarli a sedere al tavolo del gas levantino. E Cavusoglu faceva proprio riferimento al dialogo tra Grecia e Cipro. Quindi da un lato abbiamo un piano diplomatico in cui c'è un'apertura da parte turca, il volo di Di Maio quest'oggi ad Ankara. Dall'altro abbiamo un ruolo che, come molti hanno battezzato, molto timido ultimamente in politica estera da parte dell'Italia, paradossalmente questa sobrietà adesso, almeno nelle parole dell'ambasciatore Buccino, potrebbe essere un punto di forza. Perché? Perché la Turchia è ingombrante, perché quei 2000 siriani ottomani che sono arrivati in territorio libico, le armi, i cargo, ecco, tutta quella presenza potrebbe essere, in un territorio difficile e complesso come quello libico, a un certo punto potrebbe far venire qualche prurito alle autorità libiche. Poi nelle parole di Buccino è interessante anche l'aspetto prettamente economico, quel filo che ci lega come Italia appunto alla Libia con quest'opera di ricostruzione. E infine, lo dico infine, ma è una missione importantissima evidentemente, va tutto in bocca al lupo ai militari italiani che si stanno dedicando a quest'area, avete sentito, 100 chilometri quadrati, tutta la periferia di Tripoli, persino abitazioni private sono state disseminate di ordigni esplosivi improvvisati, ma anche mine vere e proprie dalle truppe del generale Haftar. Io ho come la sensazione che il generale Haftar, se non godrà del più favorevole appoggio soprattutto del generale al-Sisi in Egitto, potrebbe un giorno o l'altro doversi prendere un biglietto, anzi glielo pagano, destinazione L'Aia, Olanda. E infine gli ultimi messaggi che arrivano al 349-238-6666. L'embargo delle armi in Libia funziona oppure crea solo problemi ad Haftar? E l'ascoltatore molto attento fa riferimento a una nostra puntata in cui puntavamo i riflettori sul cargo Siskar, credo si chiamasse, abbiate pazienza, che stava arrivando a Misurata dalla Turchia, e faceva riferimento anche alla denuncia che è arrivata da parte del governo francese. Allora, questo embargo che dovrebbe essere garantito dalla missione Irini è un po', come dire, di cartone, spero di non essere irriverente, perché è una missione, quella Irini, che funziona sia su cielo che su mare. Il problema sono i confini terrestri, il problema sono questi voli aerei che riescono a triangolare armi e rifornimenti, magari arrivando dagli Emirati Arabi Uniti, atterrando al Cairo e poi via terra. Quindi io non credo francamente che al di là di un'operazione anche di facciata piuttosto importante vi sia tutta l'efficacia auspicata. Mentre sicuramente è efficace, soprattutto il venerdì, questa parola. Al quale obbedisco ringraziando voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Appuntamento domani ore 10 col meglio di e poi lunedì. Intanto un buon weekend da Gianpaolo Musumeci.